In it for you. In it, your music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Nuova in settimana di menti obnubilate dalla nebbia che se n'è già andata, per cui restano obnubilate e non si capisce per quale motivo. Questa è Music for you, Sherwood 97.8, San Donà 102.2. Buonasera Alvise Favotto. Buonasera Daniele Terzariol, buonasera radioascoltatori. È ora che ve ne facciate una ragione. È ora, cioè, passato anche un bel pezzo e sì, penso se la siano fatta. Avete avuto un anno per farvene una ragione, ora, cioè, perseverate su questa strada, vi resta questo. L'FM sta male, l'FM boccheggia, è colpa nostra. Ci sono cali nelle trasmissioni di Sherwood, perdono ascoltatori, è sempre colpa nostra. Sì, San Donano fa una cippa, sempre colpa nostra. Tra l'altro c'è stato un grande momento di disagio nella curva sandonatese. Che è successo? Se è stato elevato un cartellone contro di noi? Purtroppo sì. Ma dai, cosa stai dicendo? E c'è stato un lancio di nutrie dal primo piano, voi dovete sapere che noi siamo al secondo, dal primo piano in direzione della nostra finestra. Per cui verso l'alto. Esattamente, la nutria verso l'alto. E conta che pesano minimo 10 kg. Sappiate che questo gesto non rimarrà, non verrà dimenticato, non cadrà nel dimenticatoio. Scolpito sulla fronte nostra, te credo che non verrà dimenticato. Esatto, cioè andate in giro con un baffo di nutria nell'orecchio per una giornata. Prendiamo il filo di questa trasmissione. Certamente, prendiamolo. Questa trasmissione, la trasmissione odierna, ne è vero. Ma chi mi vede? È dedicata a Garrincha Dischi. Finalmente qualcuno che fa il suo lavoro e lo fa anche bene, al contrario di noi. Comunque ricordiamo che il nostro non è un lavoro, esatto, è volontariato. Garrincha Dischi, una realtà bolognese. Adesso vi anticipiamo subito che a breve avremo Matteo, che è un po' il deus ex machina di questo Garrincha Dischi, in collegamento telefonico, ma e che ci racconterà una serie di succose notizie riguardo la sua attività discografica e il progetto Quattro Fiori per Zoe. Mi veniva ancora un "è vero", lo dico. È vero. In più volevo dirti, mi dice, sti qua sono bolognesi, intervisteremo Matteo. Tu dici, che cognome può avere Matteo? Romagnoli. Giustamente. Giustamente. Ebbene, andiamo con un pezzo, per prima di avercelo in telefonica. Ma chi mi porti? Mi porti l'Editron. L'Editron, bel gruppo. Vorrei far notare che li abbiamo anche visti dal vivo in quel che era l'Airport Festival, e c'è una grande occasione per salutare Astrid in radio. Ci parcheggiavano i cargo sopra la testa, intanto l'Editron portavano in tour velocifero. Esattamente. Siamo andati a vederli, ci erano piaciuti molto. Questa volta non vi presentiamo un pezzo di Velocifero, perché no, senza nessun motivo in sostanza, ma un pezzo preso da Witching Hour. Questa è International Dateline, che è la storia dell'avere un rapporto a distanza su fusi orari diversi. Andiamo, va. Infatti a un certo punto dice "Let's end it here". Coast, Music for Youth per Radio Shadow 97.800, Radio Sandonà 102.2. Siamo rientrati in studio, Matteo Ravagnoli collegato in telefonica con noi, ce l'abbiamo. Matteo, ci sei? Ci sono. Eccoti qua, benvenuto. Grazie per averci, per volerci bene in qualche modo. Grazie a voi. Ma tu chi sei? Cosa ci rappresenti? Sei il fondatore di Garrincha Dischi? Esattamente, sì. E che cosa mi rappresenta a sua volta questa Garrincha Dischi? Ce ne vuoi parlare tu diffusamente? Allora, diffusamente, dunque, praticamente l'esigenza è molto semplice. Io vengo da una storia quasi decennale, no, in realtà no, siamo 8 anni comunque, e che inizia nel 2003 con 4 ferri per Zoe e una serie di esperienze legate... ovviamente prime esperienze discografiche, quindi quando comunque con Mescal, Sciopero Records, al tempo etichetta di Yo-Yo Mundi, Sony, e lì partono le prime esperienze con le etichette. Da lì in poi un po' gruppi miei, un po' gruppi con cui collaboravo, dopo svariate esperienze più o meno problematiche, più o meno fruttuose, si è deciso, è nata l'esigenza di autogestirsi, che vuol dire fare un po' le proprie scelte, secondo me più che quelle artistiche, comunque nessuno ci ha mai indirizzato da nessuna parte, le scelte di tempistiche, cioè quelle di dire oggi abbiamo pronto questo disco e lo facciamo uscire domani l'altro, cioè più o meno è questa la voglia. Nasce soprattutto per fare i dischi propri, perché infatti sono, poi va a vedere il catalogo Garrincha, i primi dischi sono stati 4 ferri per Zoe, Leli, di cui faccio parte, 33 ore, che comunque era un amico produttore artisticamente, quindi comunque circolo amici e poco altro. E poi dopo nel novembre dell'anno scorso, quindi stiamo parlando di 6-7 mesi fa, è scattato qualcosa, che l'interesse un po' è cresciuto, siamo diventati un pelino più intraprendenti, anche un pochino più incoscienti, e abbiamo iniziato a fare un po' più dischi del previsto, un po' più dischi anche probabilmente rispetto alle nostre possibilità, perché siamo partiti, adesso siamo quasi un disco al mese, e a volte si fa fatica a starci dietro realmente da tutti i punti di vista, sia organizzativo che economico che tutto, però un pochino di incoscienza legata comunque a avere comunque tanti prodotti secondo noi interessanti. E in ultimo, non per importanza, se nel primo anno e mezzo di vita di Garrincha comunque mi trovo da solo a gestire più o meno le cose, siamo cresciuti un po' al gruppo di lavoro e un po' con l'entusiasmo, un po' anche proprio con la forza lavoro altrui, Garrincha sta diventando una vera etichetta, mentre prima era più una scusa, un marchio da mettere su dei dischi, ecco. Ci stavi dicendo, partite come per diciamo produrre i vostri dischi o dischi di amici, adesso vi state ampliando a macchia d'olio. Come scegliete i gruppi? Come nasce questa sottile intesa? Allora, c'è sempre un fondo di casualità molto, molto, molto, molto grande, insomma. La casualità io credo che governa comunque la maggior parte delle scelte, che non vuol dire scelte fatte a caso, vuol dire però che generalmente le conoscenze sono spesso casuali, frutto di cose non ponderate. Tolti quindi il gruppo di amici e affini, le prime cose che abbiamo iniziato a fare, non nostre, la compilation di Natale, Il Natale non è reale, è stato un momento di reale apertura verso gli altri, perché comunque ci sono 4 artisti, c'erano tutti quelli che erano gli artisti Garrincha ai tempi, quindi 3-4 artisti, e i pezzi sono 18, ci sono 18 artisti che hanno lavorato, e lì è nata la collaborazione con lo Stato Sociale, che oggi esce col primo EP firmato Garrincha, il secondo della loro discografia. E da lì, in quel momento lì, quando è partito tutto questo calderone, questo Natale non è reale, perché comunque ha portato un po' di interesse, ma ha portato anche a livello economico ben poco, perché era in free download eccetera eccetera, però non so, è successo qualcosa, forse anche nelle nostre teste, a livello proprio di cosa si poteva fare, sempre continuando a mettersi del nostro, investendo il giusto, e lì è successo qualcosa tale per cui ci siamo trovati, da quando è scattata l'idea di far uscire il Natale non è reale, che 20 giorni dopo Natale non è reale avevamo già fissato l'uscita dei Manzoni, che era il primo gruppo realmente che non c'entrava niente col nostro circolo, un po' anche per un punto di vista geografico, perché comunque arrivano da Chioggia, e un po' perché obiettivamente prima di fare questo disco con loro noi non li conoscevamo, non sapevamo proprio chi fossero. Quindi è stato veramente l'operazione passo più lungo della gamba, cioè della serie prendi un gruppo che non conosci, cioè incominci a pensare che devi fare l'etichetta realmente. E forse lì è scattato qualcosa a livello proprio mentale, ecco, a livello di stimoli, perché comunque lì siamo stati un po' obbligati a fare l'etichetta vera e propria. E basta, da lì in poi è partita la follia, perché stiamo facendo veramente tanti dischi. Da lì è uscito il nuovo EP dello Stato Sociale, disco di Nel Dubbio, un cantautore bolognese che sta uscendo in questi giorni, esce il 29. Stiamo organizzando una compilation estiva che sarà divertentissima, e poi quant'altro, ci si è previsto il nuovo disco di Mister Brace, insomma tante altre cose, siamo allargati molto, e degli artisti che c'erano già in etichetta si è deciso di velocizzare un po' i tempi, quindi stiamo facendo i dischi in maniera un po' più veloce, con l'idea di fare un disco all'anno per ogni artista, come si faceva, come facevano i Beatles negli anni 60, insomma. Vuoi dirci qualcosa del progetto Quattro Fiori per Zoe, che parte nel 2003 con Normalmente Scompaiono, segue 13 cose che dovrei dirti e siamo arrivati a musiche per film mai visti, tutti ottimi titoli, e tra l'altro sì, infatti una stima enorme per questi titoli. Tra l'altro vedo una collaborazione in 13 cose che dovrei dirti con un cantante che a me piace un sacco e che è Tejen, sì. Oldgarden. Sì. Sappiate che avete tutta la mia stima. Io Tese vorrei incontrarlo un giorno, per cui se mi potete dare una mano, gli vorrei solo stringere la mano. Probabilmente lui è altissimo e non ci vedrebbe. Ogni tanto mi ascolto Winter Morning anche fuori stagione, mi piace sempre un sacco, no? E parlaci più che altro di Quattro Fiori per Zoe e anche di come vanno le cose. Allora, Quattro Fiori per Zoe è un gruppo che comunque è, diciamo che è più un laboratorio, nel senso che è un gruppo che, vabbè, a parte me e Francesco Brini, che non siamo mai mancati nelle mille avvicendamenti di formazione, ha visto tantissime formazioni diverse, tanta gente che è passata, in realtà nessuno se n'è mai andato realmente, perché comunque le collaborazioni sono sempre continuative, con dei buchi, perché comunque la vita, insomma, porta anche a momenti di allontanamento e altro. Visto che non facciamo poi essenzialmente solo musica nella vita, o non solo i Quattro Fiori per Zoe, comunque. Niente, è partito da un'idea, erano i primi anni di questo decennio, e l'idea comunque di una canzone d'autore, comunque molto contaminata dall'elettronica, eravamo appena usciti dal trip hop, eravamo appena usciti dalla prima ondata drum and bass, eravamo uscite un sacco di cose che Francesco Brini, che è il mio socio in Quattro Fiori per Zoe, ha vissuto, che tuttora fa musica elettronica, fa il DJ in giro per il mondo, e quindi l'idea era quella di portare avanti quel tipo di tradizione, che se vogliamo forse l'ha iniziata con sosta produttori indipendenti piuttosto che la Cruz o qualcun altro. Poi col tempo si è evoluto molto, perché poi in realtà il secondo disco era completamente suonato e non c'era proprio, c'era l'idea al contrario di fare tutto molto realistico. Musiche per film mai viste, dopo è stato, in realtà non è un vero e proprio disco, è una raccolta di tutte le cose che abbiamo fatto io, Nicola Manzano e Francesco Brini per music, per film, teatro, documentari, esposizioni, e quindi è una raccolta in realtà, ecco. Si potrebbe fare anche il volume 2 per quanto materiale esiste, e adesso stiamo registrando un disco nuovo, e sarà un altro passaggio ancora, diciamo che in un percorso come Quattro Fiori per Zoe, che non ha nessuna intenzione di scomparire, ma senza neanche l'angoscia di diventare un progetto gigante domani l'altro, ogni disco ha avuto un pochino la sua storia. Il prossimo disco è il disco più cantautorale di tutti, molto essenziale, non c'era più l'orchestra che invece ha accompagnato tutti i dischi di Quattro Fiori per Zoe, si passa dal quartetto, ci sarà molto poco, saranno quasi dei provini ben fatti, ecco, sarà un'ottica diversa, come è stato poi sempre ogni disco di Quattro Fiori per Zoe. Ci sarà ancora Francesco Brini, ci sarà ancora Nicola Manzano come collaboratore, che è stato negli ultimi due dischi, Nicola Manzan Bologna Violente, insomma molto conosciuto, e un po' meno ospiti, un pochino più ci arrangiamo da noi, però sì, è un progetto che continuerà a esistere, anche perché comunque gira intorno a un gruppo di amici che comunque, quindi di base non credo che abbia un senso dire che è un progetto che si può chiudere. Però Quattro Fiori per Zola poi dopo è stato affiancato da Leli, che 2 anni fa è diventata l'altro mio grande impegno come musicista, ecco. Ora io ti confiderò che noi siamo dei paladini dello stalking, quindi sì. come facciamo a seguire le vostre uscite, a vedere cosa state facendo nella vita e più in generale quali sono le tue abitudini alimentari? Cioè... Allora, il prossimo disco è un disco molto biografico, parlo anche delle mie abitudini alimentari e anche delle mie problematiche sessuali, di un sacco di cose, quindi sì. Nel prossimo disco avrete possibilità di fare grande stalking. Non togli che esiste un sito che è www.garrinciadischi.it, che stiamo cercando di tenere il più vivo possibile, e c'è una parte video che tra poco sarà super operativa perché finalmente esiste una persona che se ne occuperà, e soprattutto è molto vivo perché da un lato stiamo facendo molte uscite, dall'altro perché è un periodo che, in questo periodo di grande delirio discografico, molti dischi li stiamo facendo oltre che in versione fisica, che insomma noi ci teniamo molto a fare dischi fisici con package ricercati, li facciamo in free download. Infatti invito tutti ad andare a scaricare gratuitamente il nuovo disco dello Stato Sociale, che oltre ad essere 5 copie fisiche si può scaricare gratuitamente, come altre cose, insomma, andando sul sito di Arrincio si possono trovare anche dei regali veri, nel senso proprio cose che sono regalate, quindi e lì ogni tanto scriviamo anche sì, le nostre abitudini alimentari e i nostri problemi di salute. No, ma se volete ravvivare ancora più il sito, vediamo il podcast di questa trasmissione, se volete fare qualcosa, altrimenti te l'ascolti in bagno come fanno tutti, e tanti saluti. Matteo, noi ti ringraziamo, che il tempo stringe e non si resta una ora, come diceva Montale o Montale, per chi fa il burino e vuole fare battute da 2 soldi. Qui in Veneto Montale, in realtà. Infatti. Matteo, stacci bene. Ti ringraziamo tantissimo, rinnoviamo il suggerimento di Matteo di andare a sentire e a scaricare Amore ai tempi dell'IKEA. Esattamente. Che è un titolone, montatevi la vostra cucina, montale la vostra cucina e speriamo di sentirci presto, Matteo. Grazie, spero anch'io. Grazie Matteo, un pezzo adesso dei Quattro Fiori per Zoe su Music for You, Radio Sherwood e Radio San Donà. Thank you. L'Africa per noi è troppo grande. Questi erano i quattro fiori per Zoe. Bentornati su Music for Youth. Ringraziamo ancora una volta Matteo, che è stato con noi al telefono, patron della Garrincia Dischi. Sì. Dico giusto? Assolutamente sì, dici giustissimo. Anzi, Matteo, grazie mille. Noi ci ginuflettiamo di fronte al tuo grande sapere musicale, cosa che noi ti invidiamo segretamente nell'oscurità delle nostre camerette. Nell'oscurità totale delle nostre vite, tra l'altro. Vorrei far notare che io da sempre, ossia dalla tenera età di 13 anni, ho un poster di Top Gun. Non c'entra assolutamente niente come la musica che stiamo per selezionare adesso. Tornano sulle frequenze di MFYI The National. Noi non siamo in grado di tenere una conversazione che sia una, loro ne hanno addirittura 16. Sì. Perché questo è il nuovo singolo, Conversation 16, dall'album I'm Violet. Esatto, i National tra l'altro ci faranno visita ben presto a Ferrara. E noi stiamo lì. In quel di Ferrara sotto le stelle, Sandonà organizzerà il suo degno pulmino Marcassa, se posso fare una pubblicità, perché è di Musile in sostanza. Ma niente, andremo a vederli in tutto il loro splendore. Offriamo anche panini. Sì, sì. Panini a due soldi. Anche della Luganega. Una sola fetta di mortadella, non tre. Che non è che possiamo spendere tutti questi soldi. E non fatevi, e non immaginatevi che perché diciamo una sola fetta, allora è di uno spessore di un centimetro. No, no. È una fetta tagliata normale. È invisibile, è come esatto. Magna aria. Praticamente ti prendi la mantovanina, te la pari giù, è la stessa identica cosa. Esatto, però ogni tanto potete trovare un degno pistacchio. O altrimenti un alligatore nel mezzo, visto che è da lì che i National sono partiti, è l'album che ha avuto maggior successo, sono seguito poi Boxer e esatto. Questa nuova prova. Nel Pugile. Mezzo c'era Virginia EP, un EP abbastanza acustico che consigliamo, assieme al documentario che i National hanno prodotto in allegato, come i migliori prosciutti da due etti e mezzo. Ma il loro successo interplanetario meritatissimo. Io vorrei far notare che io vorrei invecchiare come il cantante, ma comunque non c'entra nulla, anche pagando dei soldi. Il reale successo viene raggiunto con Boxer e poi confermato da questa ultima prova, che è assolutamente godibile. Andiamoci a sentire allora Conversation 16 dei The National, dall'album High Violet. I think the kids are in trouble. Do not know what all the troubles are for. Give them ice for their fevers. You're the only thing I ever want anymore. We live on coffee and flowers. We try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. Miserable things after you are asleep. Now we'll leave the silver city, 'cause all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver city, 'cause all the silver girls, everything means everything. It's a Hollywood summer. You never believe the shitty thoughts I think. Friends out for dinner. When I said what I said, I didn't mean anything. We belong in a movie. Try to hold it together till our friends are gone. We should swim in a fountain. I do not want to disappoint anyone. Now we'll leave the silver cities, all the silver girls. Leave the silver city to all the silver girls. Everything means everything. I was afraid I'd eat your breath. I was afraid I'd eat your breath. I'm confident. silver girls gave us black dreams. Leave the silver city to all the silver girls. Everything means everything. I was afraid I'd eat your brains. I was afraid I'd eat your brains. 'Cause I'm evil. 'Cause I'm evil. 'Cause I'm evil. Conversation 16, il nuovo singolo dei National su Music for Youth, Radio Share 97 800, Radio Sandona 102.2. Non smetteremo mai di dirlo. Non smetteremo mai neanche di stupirvi. Tra l'altro, una cosa che io e il buon Terzariol qui presente iniziamo a discutere nel fuori onda è l'appropinquarsi del festival di Radio Sherwood. Controllatevi www.sherwood.it. In questa pagina vi trovate tutte delle succose novità riguardanti la lineup del festival. La cosa più recente è una conferma da parte dei sempreverdi Subsonica. Sovvivi. Un po' di Abre Magique per loro. Riesumati dai Murazzi. Esatto. Ma tante cose all'orizzonte. Mauro Armano Giovanardi La Cruz, anche se ha favoto, sì. Oddio, mettiamola così. No, diciamo, puntini, puntini. Diciamo che io sono felice che Mauro abbia una sua carriera, poi tutto il resto viene da sé. Sì, esatto, per me. Il fatto che tu non ci sia, per esempio. Esatto, il fatto che io possa essere al banco della birra quella sera. Ti agiterai sugli Alfa Blondi. Esatto, molto. Su Daniele Silvestri. Su Daniele Silvestri salirò. Sui ministri che paghi un euro. I ministri, anche questo. E usano solo le stesse giacche dei Coldplay. Hai notato questa cosa? A te dà un po' fastidio questa cosa. A me dà un po' fastidio, è vero. Poi, non so se hai notato un'altra cosa nei ministri. Il vestito scuro con la scarpa bianca. E anche lì mi fa un po' pensare al maggiordomo. O anche al tennista fuori stagione. Esatto. Come si chiamava quel maggiordomo in cui la signora in giallo voleva qualcosa? Ambrogio, vorrei Ambrogio. Qualcosa di dolce. Nel caso era lui l'assassino in qualsiasi thriller, sì, di Agatha, sì, Christie. Sì, infatti lui uccide la gente con una specie di intifada basata sui Ferrero Rocher. Stai dentro a 10 piccoli indiani? L'assassino è il maggiordomo. Esatto. Stai sull'Oriente Express? L'assassino è il maggiordomo. Perché c'è un maggiordomo sul treno? Non importa. L'importante è che l'assassino sia il maggiordomo. Esatto. Sei su Barcellona Real Madrid? Chi è l'arbitro? Il maggiordomo. Esatto. È sempre lui. E chi era che agitava le cose nel video degli OK Go e ha fatto partire quell'effetto domino che a noi piace un sacco? Il maggiordomo. OK Go, bravissimi nel fare video veramente da chilo, mettiamola così, degli incapaci totali sulle musiche, ma noi ve li somministriamo lo stesso. Tra l'altro, se posso dare una nota di colore, andate a cercarvi questo video in internet, ce ne sono una serie di versioni. Soprattutto ce n'è una versione per banda, che poi è stata... Cosa vuol dire? Sì, ora sì. Spiega, per cortesia. Spiegare. Praticamente la stessa canzone è stata rifatta da una banda di paese, in sostanza, che ha collaborato con gli OK Go. In realtà è una banda universitaria, okay, che ha collaborato con gli OK Go per l'arrangiamento della musica, sia anche per la coreografia. La stessa banda ha suonato al Super Bowl la canzone degli OK Go. C'era anche Jennifer Lopez, che c'è, sta sempre al Super Bowl la Jennifer Lopez. E faceva la palla in quel momento. E sai chi faceva invece la palla nell'altro Super Bowl precedente? Il maggiordomo. Tra l'altro, un'ulteriore nota di colore è che se andate a cercare il video degli OK Go in YouTube, scoprirete che vi diranno che questo video con il famoso effetto domino è stato girato in una sequenza unica. Bene, c'è il classico cinese in coma che si è rivisitato, cioè, non guardarmi così, è un giapponese random. Dicevo, chissà perché. Che si è rivisitato tutti i 3 minuti, 4, ora non so quanti siano, della canzone, e ha trovato due punti in cui probabilmente Non abbiamo delle sovrapposizioni nei tempi e negli spazi, perché fanno pensare una teoria dei buchi neri, il maggiordomo, non so, non ci hanno venduto uno stereo napoletano in realtà, esatto, dicono una con cosa per dentro un'altra. con un mattone quello lì, come si chiama, i traforati da 47 kg, esatto, rigonfio di cemento. Ok, Go, che hanno cominciato con un album che si chiamava Oh No, giusto, esatto, e invece questo è il singolo estratto da, occhio che c'ho il titolo sotto il naso, Blue Color of the Sky, prodotto dal famosissimo Dave Friedman, un nostro compagno di birre, esatto, Dave Friedman, di cui abbiamo una foto, eccovi la foto, eccola, finita bene. Dopo aver apprezzato la bellezza e la, diciamo, prestanza anche fisica di David Friedman, andiamo a sentirci questa This Too Shall Pass. Oh, non sono l'unico con problemi di pronuncia, no, a quanto pare dislessia all over. This Too Shall Pass dei Ok Go. Siamo rientrati in studio per Music for Youth e si procede con una masnada di nuovi singoli. Eh sì, finalmente mica vi vendiamo cotica. Finalmente musica per la gioventù inizia a essere un po', diciamo, dispensatrice di singoli pop. Ma sì, che dici, tiè, come Italist Italia, vi presentiamo in anteprima il nuovo singolo. Ma di chi te presentiamo il nuovo singolo? Di quelli che sono chiamati avvistamenti UFO durante la Seconda Guerra Mondiale. Era un termine usato agli alleati. stiamo a presentare i Foo Fighters. Foo Fighters, gente. Foo Fighters che se ne escono con un ultimo album sempre per David Grohl e soci, e già David Grohl sinonimo di qualità, un po' un prosciutto San Daniele. Ultimo nel senso che poi si ritirano, l'hanno detto, o ultimo che no, okay, è l'ultima uscita? Ultimo in senso cronologico, diciamo. Io me li ero dimenticati all'epoca di Long Way to Ruin, per cui sto un po' indietro, e anche Monkey Ranch. Mi ricordo un po' l'adolescenza, anche questi, insieme ai Verve, non so perché. Vabbè. Però sono anche affari miei. Stendiamo un velo. Ma anche dici? Un trapuntone. Facciamo fuori stagione. Fai passare un maggiordomo. Fai passare un maggiordomo qualsiasi, purché sia obeso. Esatto. E ci copra per intero. In realtà il maggiordomo non è mai obeso. Non è mai obeso, è sempre vestitissimo e ha della brillantina sui capelli. E è comunque una persona particolarmente curata, il maggiordomo. E tra l'altro nel 1992 ha dato una mano a Grohl, che in silenzio dietro i Nirvana aveva prodotto delle sue canzoni, e ha licenziato questo prodottino sotto il nome di Late, punto esclamativo. Poi ha preso la sua strada. Kurt Cobain si bucava, tutto, guarda, Kurt si buca, tech, io butto fuori la cosetta, tanto non si accorge, si starà facendo un trip. E poi da lì i Foo Fighters sono venuti su. Foo Fighters, tra l'altro, Grohl dimostra di avere delle proprietà vocali neanche da poco, supportato da una band che ha il suo senso. Mi sta proprio sulle palle David Grohl, perché dici, sei batterista, lo fai bene, bene, quello è il tuo ruolo nella vita, cioè la tua professione è essere batterista, poi riesci anche a fare il cantante. Cioè, e lì ti infastidisce, vero? È lì che mi infastidisco, perché sei bravo a fare l'una e l'altra cosa. Cioè, io a calcetto sto bene in porta, ma in sto periodo neanche tanto. Ma se Nicolele va in attacco, fai la boa in attacco, non è che sono capace. Sono sempre i mattoni napoletani al posto dei piedi. In realtà vi dico, gentili telespettatori, telespettatori soprattutto, telespettatori soprattutto, in gentili radioascoltatori, il nostro Lele è un po' un punto di riferimento di un qualsiasi attacco, di una qualsiasi squadra di calcetto. Come no, un po' il Cobra Tovalieri, se vogliamo. Un po' il Nicola Padovano e noi altri. Esatto. Per la Juventus, il Darione Hubner, tutta che... bella gente, il Maurizio Ganz. Ganz, ma che fine ha fatto? Sarà un obeso come lui, come no, infatti non è un maggiordomo. Chi fa il maggiordomo? Birof. Esatto. Che è uno che si tiene sempre bene. Lo ricordo, sì, all'epoca del Venezia. Birof può anche vendere Mon Cheri. Comunque io ero lo stupido in attacco. Anzi, sono lo stupido in attacco e un po' il ballotta del Brescia in porta. Per cui, però, il ballotta in porta se salva. Cioè, esatto. Ogni tanto dove c'è Brescia c'è ballotta, dove c'è ballotta c'è Gollonzo. Quindi il Gollonzo passa anche a me. Guarda, l'unica cosa che però ti distingue da ballotta è il tuo avere dei capelli. Infatti. Chi era quell'altro che aveva pochissimi capelli? Lupatelli, ora me lo ricordo. Per risponderti a Tiglio Lombardo. Poi. Pelato e bastardo per l'ennesima volta. Ma noi di che stavamo a parlare? Dei maggiordomi? No, dei Foo Fighters. Sì, dei Foo Fighters e del fatto che David Grohl ti infastidisca. Mi dà molto fastidio, io continuo a ripeterlo. Però fa buoni CD. Mi ricordo l'acustico Skin and Bones, mi piaceva un sacco. Stiamo a vedere che cosa ci realizzano con questa loro ultima fatica. E abbiamo questo singolo, Rope. Il singolazzo, ce lo andiamo ad ascoltare. Non chiedetemi il titolo dell'album, perché al momento non ce l'ho sotto. Quello precedente si chiamava In Your Honor. Questo aiuta. Giusto per dare un'informazione. Sì. I Foo Fighters su Music for Youth. Yeah. Rope dei Foo Fighters su Music for You. Siamo rientrati in studio del tempo dei contattoni. 0421 560 993 è il nostro numero di telefono. 0421 560 994, fax per offenderci o mandare anche i vostri contributi monetari, nel qual caso il vostro 5 per 1000 non sia ancora stato assegnato né a Sherwood, né a Emergency, né a qualsiasi altra cosa migliore di noi. Neanche al panificio qua sotto, che è quello che ci procura le mortadelle per i famosi panini e trasferta di National Ferrara. Tra l'altro, il vostro 5 per 1000, fotocopiatecelo e poi ce lo mandate via fax, ma proprio la banconota, direi io. Come, quale può essere, tra l'altro? Una banconota per un 5 per 1000? Sì, cioè, quanto ti può arrivare per un 5 per 1000 di un italiano medio? Favotto, tu che lavori coi numeri. Mettiamo che siano forse al di sotto dei 100 euro. Davvero? Io immagino, sì. Ma con 100 euro io ti costruisco il mondo. Bene, io la mia idea con i miei primi 100 euro sarebbe avere 2 ore di un maggiordomo. Il maggiordomo è per sempre, poi ricordatelo un po' come i diamanti. Esatto, come il trilogy. Se siete d'accordo sia con la nostra idea di maggiordomo che con altre cose che avete sentito in corso di trasmissione, mandateci una mail e ditecelo: radio@radiosandona.it. Poi, ora Lele vi dirà anche come ascoltare questo programma in streaming o come scaricarlo. E ascolta tu radio ascoltatore, musicforyouth.wordpress.com, YOUTH per i non anglofoni, ma anche per gli anglofoni con dei problemi. YOUTH. Che cosa ho detto io? Beh, scarica questa puntata Ciarpame e tutte le altre che non sono meglio, però almeno un filo più allegre, o forse costruite con un minimo di decenza, che ce ne sono state i peggiori. Altrimenti vi collegate su Sherwood.it, vi guardate il calendario del Festival di Sherwood, controllate la nostra paginetta e tirate giù l'MP3. E nel caso in cui controlliate il Festival di Sherwood, forse una qualche sera random, quelle sere morte tipo il martedì, noi, campioni. Noi potremmo venire a mettere musica a Sherwood e lì è una buona occasione per voi per tirarci pietre, ortaggi o frutta. Sai se quest'anno ci tocca metterla prima di Mauro Ermanno Giovanardi? Io credo che quella sera avrò lasciato il gas aperto. Io credo risorgerò. Sì. Ce l'ho detto un ultras dell'Hellas Verona, bella gente. Ai tempi d'oro, un mattino, forse alle 2, in un bar di molta provincia. Di molta provincia, a Cegia, erano appena rientrati in una bella trasferta in terra triestina. Eh sì. E se l'erano anche goduta, perché stavano a festeggiare con scampi e altre cose. Sì, erano, e lui era molto più largo del duo Favotto Terzariol messo insieme. Sì, anche del locale era molto più largo. Infatti mangiava all'esterno, in rotonda. Entra lui, esce il locale, sostanzialmente. E chi ti andiamo a presentare adesso? Perché la musica sta per finire, Ryan Adams in sottofondo. Rope l'abbiamo detta, di maggiordomi abbiamo sproloquiato. A questo punto è ora di dare la parola a qualcuno che ha della serietà intrinseca. O che ha qualcosa da dire. Esatto, comparando con i qui presenti. Continuiamo con la nostra serata garrincia dischi, in sostanza. Continua. A presentare un altro gruppo del Rooster. Presenta. E questi sono i 33 ore. 33 ore che tutti sti numeri, 4 fiori per Zoe, 33 ore. Numerologia su Music for Youth? Sì, sono messaggi subliminali, forse dobbiamo rivedere anche noi il nostro standard. Insomma, Music for Youth 666, che ne so. Music for Youth 77, le gambe delle femmine. Va bene, dai, presenta sta roba, va. Allora, questo è un estratto dal loro Il Natale non è reale e la canzone si chiama Neve. Tra l'altro, questi sono i 97.8 di Radio Sherwood e 102.2 di Radio San Donato. Sei già andato alla festa, Neve dei 33 ore su Music for Youth. Siamo rientrati in studio dopo questo prodottino e la garincia dischi. Favotto mi sorride, sì, perché sta aspettando l'ultima canzone. Io adesso ti dirò qualcosa. L'ultima chiamata, il classico sorriso del gibbone, se devo dirla tutta. Il famoso gibbone in attesa di informazioni. E l'oracolo parlerà. L'oracolo ti dice questo: comico, attore e filmmaker di padre nigeriano e madre norvegese, segnalato tra i nomi più promettenti della nuova generazione britannica, è al Sundance 2011 con il suo esordio alla regia Submarine. Tu dici, è l'artista che mettiamo? No, Alex ovviamente. Turner? Ovviamente no, è il regista. È il regista del film, nel quale questa canzone fa da colonna sonora insieme ad altre 5 tracce del nuovo EP, per l'appunto, di Alex Turner. E chi è sto Alex Turner? Ecco, questo la saprei dire anch'io. La thai, come diceva Sarabanda, quella lì che non ci vedeva la mazza. Ah, non era l'uomo gatto? No, cioè ci assomigliava come pronuncia, però come si chiamava lei non me lo ricordo. Ditecelo voi a radio@radiosandona.it. In ogni caso, Favotto, mentre tu ci pensi, perché c'era la professora, c'era Paletta. Paletta che noi abbiamo anche visto dal vivo, vorrei dire. Bravo, ci ha anche smerciato le piadine a una sagra, non mi ricordo quale. Diciamo il vero, ve lo assicuriamo, sì. Chiedete a Paletta, forse lui non si ricorderà, sì, di noi. C'era anche un concerto di 400 colpi quella. Sì, l'avevamo già detta però in radio, non scassare la minchia. Hai ragione, a questo sei ripetitivo, eravamo rimasti alla domanda. Favotto, ma chi è Alex Turner? È il cantante. È un frontman innanzitutto. Bravo, è il cantante di chi, te lo ricordi? Delle Scimmie Artiche. Esatto, degli gli Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, che a me piacevano all'inizio, poi hanno smesso, se devo dire la verità. Hanno smesso con le droghe, da lì non ti sono più piaciuti. D'altronde è risaputa la tua, come dire, verace propensione per il morto di droga o per l'utilizzatore finale di droghe. Io in realtà ho una maggior propensione per il cantante alcolista, ho scoperto nel tempo, però... Io per i maggiordomi reinomani, per cui vedi tu che cosa possiamo fare per metterci d'accordo. Niente, restiamo così nelle nostre individualità. Scagliamoci dei moncherie d'affetto. Insomma, moncherie tira l'altro, uno tira l'altro, e noi vi presentiamo Pile Driver Waltz, il waltz del pile driver, che non chiedermi, che è uno che guida i pile, cioè i giubbotti, quelli. Non penso ci sia altro da dire. Il film non ne sappiamo assolutamente nulla. Parlerà di sottomarini, si chiama Submarine. Beh, eventualmente, voglio dire, a meno che tu chiami Submarine un qualcosa che poi parla di nani da giardino, Potrei seriamente incazzarmi. È fastidioso soprattutto per i nani, perché comunque sono creature di terra. Music for Youth vi saluta. Questo era Piero Angela con Alvise Favotto, che vi ha presentato l'incredibile mondo dei nani da giardino. Pile Driver Waltz di Alex Turner. Ci sentiamo la prossima settimana. Vi baciamo e vi facciamo il cuore con le dita. Purtroppo per voi. Ciao a tutti. Shoot. And the literature.